Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il giardino era quasi completamente ricoperto da foglie, di tutti i colori autunnali e di tante forme. Io stavo parlando con un altro genitore, quando i due piccoli, di 6 e 5 anni, sono andati a strappare le foglie di mano alle bambine. Sono subito intervenuto e ho fatto la parte del papà. Eh no, non si fa così. Voi raccogliete le foglie da questa parte, mentre le altre foglie sono per le bambine. Così facendo mi sembrava di aver messo ordine. E invece no. Mi chiamo Andrea Larole, vivo a Torino, lavoro al Comune di Torino, ho due splendidi figli e mi piace molto leggere, scrivo così per diletto. Voi avete mai visto la ricreazione di una scuola materna, di un asilo? Cioè, vi siete mai messi in un angolo, vi è mai capitato, magari per i vostri figli o magari perché passavate di lì e c'era un giardino all'aperto e della primavera, quei 10 minuti di ricreazione, l'intervallo, in cui ci sono questi bambini che vanno dai 3 ai 4 ai 5 anni, che semplicemente fanno quello che vogliono in quei 10 minuti di libertà. Per cui ci sono bambini che urlano disperati in un angolo, altri che si picchiano, altri ancora che giocano intorno a qualche gioco strano cercando di strapparselo di mano, delle bambine che si tengono per mano tra di loro, altri che, come i figli di Giovanni nella storia di oggi, raccolgono delle foglie e se le tirano contro. Guardare la ricreazione di una scuola materna è un po' come quando ti metti su una scogliera e guardi il mare, osservi le onde, no? E le guardi per 10 minuti, 20, mezz'ora, e a un certo punto sei convinto di aver trovato delle risposte universali sul mondo. Ecco, guardare le onde e guardare i bambini che fanno una ricreazione è più o meno la stessa cosa. Se avete seguito il mio consiglio e avete per caso qualche volta dato un occhio su YouTube a questi stand-up comedy di Louis C.K., il miglior comico attualmente in circolazione, avrete sentito anche questo pezzo. Louis C.K., che è questo comico americano di cui vi ho già parlato, parla spessissimo dei propri figli, parla dei bambini in generale e dei propri figli. E molto di frequente tira fuori una delle argomentazioni che non vengono, devo dire, molto affrontate quando si parla di bambini, perché se si parla di bambini i genitori spesso parlano di quanto sono bravi, buoni e belli, se sono tanto piccoli di quanta cacca fanno e di quanto mangiano. Però l'aspetto selvaggio dei bambini, quello che attraverso cui siamo passati tutti e di cui ci siamo dimenticati, e che i più fortunati genitori osservano nei propri figli, o se avete dei nipoti li osservate nei vostri nipotini, è una cosa di cui non si parla spesso. È per questo che ringrazio Giovanni per aver scritto un racconto che ha a che fare con quella roba lì, con come i bambini siano noi senza le inibizioni, senza tutti quegli orpelli che più o meno ci attacchiamo da solo o ci vengono attaccati addosso da qualcun altro. Se vi capita, andate sul sito di Louis C.K., scaricatevi il suo video. Lui ha fatto una roba che in Italia non si può fare, forse perché siamo in pochi, e lui lo può fare perché al momento è il numero uno, se non è il numero uno è lì. Si è ripreso lo spettacolo, uno spettacolo da un'ora e 10 minuti, e l'ha messo online sul suo sito. Costa $5, glieli date e ve la godete. È una roba che ogni tanto vi riguardate. Io mi riguardo abitualmente quando voglio rilassarmi i discorsi di Massimo Cacciari e le stand-up comedian di Louis C.K. Ma tanto, a chi se ne frega di me. Parliamo invece dei vostri bambini, figli o parenti che siano, se fate le bambinaie, se fate le babysitter, i momenti di vera, la parte selvaggia dei bambini. Francesca dice: io non posso raccontartelo, non riesco, dovresti vederlo, non mi crederesti. La furia ha l'aspetto di un bambino di neanche 3 anni. Fidati. Questo spiega, tra l'altro, perché i film dell'orrore più inquietanti hanno per protagonisti i bambini. Lo dice una mamma, questo. Caterina: i miei nipoti da soli sono degli angioletti, messi insieme diventano l'incarnazione di Attila. Sì, ma cosa fanno? Cioè, concretamente cosa fanno? Giulia: la furia di mia figlia si manifesta quando vuole fare tutto da sola. A 2 anni vuole sempre fare tutto da sola. Questa roba mi fa venire in mente una mia amica che faceva l'analista e che raccontava che aveva come paziente una signora che a 50 anni voleva fare tutto da sola, e che la cui mamma aveva raccontato che una delle prime frasi che disse fu: faccio io. Questo per fare capire più o meno il genere, se siamo davvero uguali come eravamo quando eravamo bambini. Giorgia: zompare per la casa ininterrottamente per 12 ore. Vabbè, tant'è, qualsiasi sia la forma di furia, la forma selvaggia dei vostri figli o bambini che conoscete, 349-238-6666. Ne approfitto, e lo faccio oggi perché ho paura di dimenticarmi, perché quando mi dicono le cose è meglio che le dica subito. dal 25 aprile al 1 di maggio a Bolzano c'è un festival che si chiama il Festival delle Resistenze. È un festival molto interessante in cui si parla delle diverse forme di resistenza, a parte il 25 aprile mica per niente, ma poi da lì va anche oltre. E quindi faccio una cosa che io non faccio abitualmente. Di solito quando vi chiedo di scrivere un racconto, cioè di solito, è proprio il formato del programma questo qua. Scrivete un episodio della vostra vita che vi riguardi, quello che volete. Capita però ogni tanto di chiedervi delle cose a tema, molto raramente, questa è una di quelle volte. Se avete voglia di mandarmi un racconto che parli di qualsiasi forma di resistenza alla crisi odierna, cioè se avete la vostra forma di resistenza a che fare con il lavoro cercandovi qualcos'altro, oppure licenziandovi e andando a vivere in Nicaragua, se ha a che fare invece con l'amore o con l'amicizia, qualsiasi tipo di resistenza alla crisi che abbiate sperimentato, voi siete qui, @radio24.it. Se riuscite a scriverlo e a mandarlo entro il 25 aprile è molto meglio. 349-238-6666. Torniamo a quella parte selvaggia che fa parte dei bambini, ma che fa parte di noi e che ce la viene raccontata perfettamente dal racconto di Andrea. Vivo in un bel condominio composto da casette a tre piani, disposte in un bel giardino con tanti alberi. Alberi che d'autunno lasciano cadere moltissime foglie sul prato. I bambini delle famiglie che abitano nel condominio, come ogni anno in autunno, si divertono a raccogliere e a farne mucchi, su cui spesso si buttano per gioco. E così, anche quest'autunno, i nostri bambini si sono messi all'opera. Soltanto non è andata bene come ingenuamente io immaginavo. Erano in quattro, due maschi e due femmine. Uno dei maschi e una delle femmine sono i miei due figli. Le piccole di 7 e 4 anni si dilettavano a raccogliere foglie per farne dei mazzetti che tenevano in mano. I maschi invece le ammucchiavano con l'idea di tuffarcisi. No, non si nasce papà, lo si diventa e si impara. Io cerco di applicare questo metodo qua, imparare dagli errori, cercare di correggere il tiro, andare avanti e la fine ultima è riuscire a stare bene insieme. Il giardino era quasi completamente ricoperto da foglie, di tutti i colori autunnali e di tante forme. Io stavo parlando con un altro genitore quando i due piccoli di 6 e 5 anni sono andati a strappare le foglie di mano alle bambine. Io sono subito intervenuto e ho fatto la parte del papà, ovviamente. Eh no, ragazzi, non si fa così, eh? Voi raccogliete le foglie da questa parte del vialetto mentre le altre foglie sono per le bambine. E così facendo mi sembrava di aver messo ordine ad una cosa un po' assurda, perché di foglie ce n'era per tutti. I due non erano convintissimi, perché erano sicuri di aver avuto la parte di prato con meno foglie. Insomma, credevano di essere vittime di un'ingiustizia. Li avevo silenziati con uno sguardo e pensavo di aver risolto la questione. Dopo una pausa, i due hanno deciso di invadere di nuovo lo spazio altrui per prendere un paio di foglie, quasi, quasi simboliche. E sono tornati tutti soddisfatti nel proprio campo. Sentite subito le rimostranze femminili, partiva una mia sgridata con l'ordine tassativo di restituire il maltolto con tanto di scuse. I bambini carinamente si scusavano e riconoscevano che avevano sbagliato, riconsegnavano nelle mani delle bambine le foglie. Peccato che dopo meno di 5 minuti la storia si ripeteva. Allora è intervenuto Giovanni, l'altro genitore, che con le buone maniere rispiegava il concetto dell'abbondanza di foglie e del limite territoriale. Un bel discorso, che i quattro hanno seguito e che io ho apprezzato. Efficacia però molto poca. Dopo non più di 5 minuti i bambini riprendevano a scorazzare in campo avverso, con l'aggravante che provavano a strappare anche le foglie che erano ancora appese ai rami degli alberi. Per risolvere in modo definitivo la controversia, Giovanni e io abbiamo dirottato l'aggressività dei bambini nel gioco del calcio, piccoli contro grandi. E solo allora, con la libertà di prendersi a pedate l'un l'altro, ci si è placati. Faccio sport è un parolone, perché io forse da giovane sì, adesso faccio un po' di ginnastica, molto fai da te, vado a correre, è un modo per stare in forma, forse c'è un po' di edonismo, ma insomma, tanto che ci siamo, è un modo per stare in forma, direi. E cerco di trasmettere ai bambini, non con così, nella forma del gioco, del divertimento. Tutta questa storia mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto venire in mente qualche domanda banalissima, eh? Cose tipo: è possibile che l'erba del vicino sia sempre più verde dell'altra, della tua. Possibile che anche dopo aver spiegato le cose in modo obiettivo, pacato, le persone continuino a non capire, anche se bambini. Sono domande inutili, lo so, perché se è accaduto vuol dire che è possibile. E ovviamente si dirà che sono bambini. L'istinto di sopravvivenza, lo spirito di conquista, la voglia di giocare, il rapporto conflittuale tra maschi e femmine, sarà tutto quello che si vuole. Ma da vedere dal vivo intendo dire, è molto strano. La cosa che spero però è che almeno abbiano capito che li abbiamo lasciati vincere nella partita che abbiamo giocato grandi contro piccoli. When I'm a walking I strut my stuff and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. Al liceo mi sono appassionato allo studio della filosofia. Ve li ricordate? Socrate, Aristotele, gli Epicurei, poi Kant, Hegel, Freud. Un sacco di persone intelligenti. Quelli che però mi hanno fatto più pensare sono stati gli illuministi. E io me li immaginavo lì con quelle loro idee rivoluzionarie, no? A immaginare un mondo diverso. E il mio preferito era Jean-Jacques Rousseau, che era svizzero di Ginevra, ma che praticamente ha fatto scoppiare da solo la rivoluzione francese. E quando non parlava di politica e di nuovi contratti sociali tra i potenti e i poveracci, lui si occupava di cantare le lodi della natura e dell'uomo per come nasce. E a maltrattare la cultura, invece, che corrompe la vera natura innocente dell'essere umano. E parlava del buon selvaggio, forse qualcuno se lo ricorda, e di come fosse la società civile e colta a rovinare le persone, portandole alla degenerazione e al vizio. E sono stato tanto tempo con questa opinione, cioè pensandola come lui. Poi un giorno un mio amico mi ha fatto leggere un libro che si chiama Il Signore delle Mosche di William Golding e tutto è cambiato. Non perché quelle parole contenessero delle verità rivelate, ma perché mostravano qualcosa che io sapevo ma che non volevo dire a me stesso. E cioè che fondamentalmente siamo tutti potenzialmente cattivi, tutti, io per primo. Basta solo che si creino le situazioni adeguate. Dunque, la storia del libro è semplice, se non l'avete letto fatelo. Il Signore delle Mosche racconta l'iniziazione di un gruppo di adolescenti alla vita degli adulti. La storia inizia con un incidente aereo che obbliga un gruppo di ragazzi inglesi sopravvissuti a vivere insieme su un'isola deserta. Che poi, se ci pensi bene, Lost non ha inventato niente. E ci sono vari personaggi. Ci sono i ragazzi di un coro, un capetto buono e un capetto cattivo, ma tutti in qualche modo cercano di arrivare ad una convivenza pacifica, in attesa che qualcuno venga a salvarli. Tutti i ragazzi stavano fuggendo da qualcosa, una guerra nucleare, qualcosa del genere, mi pare. Inesorabilmente sull'isola, senza regole, senza adulti, si creano conflitti e grandi casini. Tanto che l'unica cosa che avevano fatto per farsi salvare, cioè accendere un fuoco di segnalazione che erano stati in grado di accendere e che tenevano acceso, viene lasciato spegnere, semplicemente perché i ragazzini preferiscono giocare invece che occuparsene. E quindi si arriva ad uno scontro tra razionalità, saggezza e democrazia da un lato e fanatismo e dittatura dall'altro. La situazione degenera, le paure arrivano, compresa quella del Signore delle Mosche, appunto, che in fondo è uno dei tanti nomi con cui viene chiamato il demonio o il diavolo. E un sacco di altre paure, presenze di cui si percepisce l'esistenza sull'isola. E tra follia ed enfasi, tre bambini vengono uccisi, brutalmente, da altri bambini che non hanno più nulla di umano perché perfino il loro volto è coperto di color di guerra. Finché, un giorno, all'orizzonte, si presenta una nave militare e un ufficiale recupera i ragazzi e li porta a casa come se niente fosse successo. Niente. Ecco, quella è stata una lettura che ha messo in dubbio tutte quelle mie certezze di ragazzino, peraltro, sull'uomo buono e sulla società cattiva. E adesso di certezze non ne ho più. Io quando ero bambino non capivo perché non potevo, ad esempio, che so, prendere il cioccolato dalle mani del mio compagno, no? Cioè per me era facilissimo, era del cioccolato, era buono. Lo volevo mangiare. Era nelle sue mani? Dovevo solo prenderlo e lo prendevo. A quel punto arrivava la maestra, mi sgridava, mi diceva che era suo e che semmai potevo chiederglielo. E allora io cosa facevo? Glielo chiedevo e lui mi diceva di no. E allora continuavo a non capire perché non potessi prendermelo. Cioè, alla fine io, come tutti i bambini, sono cresciuto attraverso le sgridate dei miei genitori e della maestra. Se fosse stato per me, cioè se fosse stato veramente solo per me, io non sarei stato educato. E non lo so se è un bene o un male, ma sono sicuro che se l'isola del Signore delle Mosche esistesse veramente, i bambini si comporterebbero esattamente come descritto lui. Forse è anche per questo che quando osservo i bambini sono nello stesso tempo terrorizzato e affascinato, perché rappresentano quello che realmente siamo, ma che in realtà non siamo più. Io mi stupisco ancora quando arrivano messaggi come questo e parla di un tizio che non si firma, mi piacerebbe tutti firmassi, che dice: ho sei figli, bisogna avere una grande fiducia nel futuro e anche nei prezzi, oltre che una casa grande, e nell'inflazione. Ho sei figli, di cui 4 tra 1 e mezzo e 11. Cosa vuol dire? Che probabilmente gli altri due sono o molto più piccoli o molto più grandi. Ce l'ho fatta, Ce l'ho fatta. Non passa giorno che Emma, 11 anni, e Pietro, 8, si insultino e si menino. Inizialmente mi arrabbiavo ferocemente, ma non è servito a nulla. Adesso li osservo e rinfaccio loro l'inutilità della frequentazione al catechismo. E come per magia il clima si rasserena. Non ho capito cosa fai. Cioè, tu dici a loro che non gli è servito niente andare al catechismo? Cioè, gli fai nascere un senso di colpa su già un mega senso di colpa. 349-238-6666. Sandro. Figlio di un caro amico, 2 anni e rotti, è sull'autobus e sta disegnando. L'autista stringe troppo una curva, lui sbava il disegno e fa partire un no cazzo. La madre rossa paonazza. Quando sembra tutto finito e ormai dimenticato, il piccolo si gira e fa: cazzo, si può dire? PS, il fatto che mi abbia elencato tra i suoi amici dell'asilo è per me motivo di grande orgoglio. Andiamo a sentire invece qualcuno che con i bambini c'ha a che fare più direttamente, perché nel caso di Sandro sono figli di un amico, nel caso di Andrea invece i figli sono proprio i suoi. Pronto, Andrea? Pronto? Io non lo sento Andrea, forse. Ecco, pronto Andrea, ci sei? Pronto Andrea? Si chiama Andrea, giusto? L'ho chiamato Giovanni prima, un attimo fa, però ho sbagliato, no? Forse si è offeso per aver chiamato Giovanni. Pronto Andrea? Niente. È bello che dalla regia mi dicono: parla, parla. E io parlo, però è lui. Direi che lo richiamiamo, bravo. 349-238-6666. Andiamo. Sara mi ha scritto questo messaggio oggi, che è preso da Mal di Mestiere di Cesare Pavese. E dice così: perché davvero nell'infanzia eravamo un'altra cosa, piccoli, bruti, inconsapevoli. Il reale ci accoglieva come accoglie semi e pietre. Nessun pericolo che allora lo ammirassimo o volessimo tuffarci nel suo gorgo. Eravamo il gorgo stesso. Ma la storia segreta dell'infanzia di tutti è fatta appunto dei sussulti e degli strappi che ci hanno sradicati dal reale. Wow, ripeto, Mal di Mestiere, Saggi Letterari, Pavese e Einaudi Torino. Grazie a Sara. Dovremmo avere Andrea invece. Pronto Andrea? Ciao, eccoti qua, dove eri finito? Sono caduto. Ah, sei caduto, dove che sei? Sei in mezzo a una strada peraltro. No, guarda, sono vicino a un bar dove ci sono i miei amici, abbiamo ascoltato insieme la trasmissione, il racconto. Bene, senti, parliamo dei tuoi figli, come si chiamano? Guarda, sono due bellissimi, Alessandro e Greta. Forse sono lì che ascoltano. Come forse? Cioè, il papà parla in radio. Non li ho sotto controllo, sono sotto il dominio della mamma. Ah, probabilmente si staranno o picchiando o strappando delle foglie di mano, evidentemente. No, senti, quanti anni avevi quando li hai avuti? Andrea? Pronto? Andrea, sì, mi senti? Sì, allora, 36. 36. Senti, ti faccio una domanda che sembra veramente una domanda stupida, ma che una volta voglio fare. Come si decide di avere un figlio? O per caso, oppure ci si mette lì e si dice: stasera lo facciamo? Tutte e due, esattamente tutte e due. Cioè, nel senso che uno è venuto per caso e l'altro invece è venuto io con... Io dico tutte e due, può capitare l'uno e l'altro. può capitare l'uno e l'altro. E sono belle tutte e due le cose. Senti, invece tu dici una cosa molto interessante, cioè l'hai detta nell'insert in voce, sì, durante il racconto. Dici: non si nasce padri, no? Che è vero, si nasce figli, e sì, poi, sì, e poi lo si diventa. Tu, perché esistono dei manuali anche come diventare padri, che aiutano a crescere, quelle robe lì. C'è un mio amico che mi informa sempre sulle ultime pubblicazioni, io dribblo sempre, voglio esperienza così, farmela sul campo. Tu vai dritto sulla tua strada? Sì, provo a sperimentare direttamente, però c'è rischio di fare qualche pasticcio. Senti Andrea, io devo lanciare la borsa, quindi ti lascio tornare ai tuoi amici. Vai. Al bar. Come si chiama il bar? Sì, al bar. Come si chiama il bar? Se posso dirlo, è un bellissimo bar, vicino a Piazza Solferino, si chiama Caffè Solferino. Ma scusami Andrea, io ti dico come si chiama il bar e tu parti con la marchetta per il bar, bastava il nome. Ti ringrazio. Ciao Andrea. Ciao, grazie mille. Ciao. E niente, è partito il nome del bar, è un bel bar, si beve bene, fa un bel caffè. Mia figlia a 2 anni diceva: faccio da sola, adesso ne ha 15, non fa un bel niente. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Brucia, Crusty, brucia! Un gruppo di piccoli spartachisti ha occupato questo campeggio con la forza. 3 supervisori mancano all'appello, saranno terrorizzati. Cosa c'è? Ah, mi stanno dicendo che posso avere un'intervista esclusiva con il capo rivolta. Fa che non sia il ragazzo, fa che non sia il ragazzo. No! Voglio solo che il mondo intero sappia che questo era un campeggio di cacca. Si può dire cacca in TV? Voi siete qui. Ed è autoscatto anche per il nostro Andrea, protagonista della storia di oggi, anzi autore della storia di oggi. I protagonisti erano i figli, che evidentemente, questi secondo me, quelli come Andrea, sono quelli che non sanno, non hanno delle foto. Margherita lì tampina per giorni dicendo: mandaci una foto. E allora il povero Andrea si mette lì e si scatta una foto mossa e con la faccia numero 2 d'autoscatto, cioè la faccia numero 1 è quella, faccio la faccia un po' interessante, come se nessuno mi stesse facendo l'autoscatto, cioè non io quantomeno. Andrea invece, che proprio ha tutte e due le mani tese, e dice: eccomi qua, sono io. Sì, non ho neanche detto com'è, comunque ha una 40 anni, ha un maglione grigio, dei capelli grigi e la faccia simpatica. Secondo me adesso è in un bar, è in un bel bar adesso, non mi ricordo come si chiama, ma ci sono delle belle mamme e bei papà. Cosa vuol dire? Ci sono delle belle mamme e bei papà, Andrea. Mio figlio ha 4 anni, è terribile, spacca tutto quello che gli capita sotto mano, è incontrollabile e niente funziona con lui, né castighi né altro, non gli interessa niente, tanto puntualmente lo fa nuovamente, ma ultimamente ho scoperto un'arma che funziona. Lo faccio sentire in colpa, di già. Ma già questo è il buon vecchio senso di colpa. Ma senti come lo fa sentire in colpa. Lo faccio sentire in colpa facendo finta di essere triste e di piangere. E devo dire che ottimi risultati. Ciao Said. Certo, questi risultati lui li pagherà nei prossimi anni con 80 euro dall'analista, una volta a settimana, se non due, Said. Occhio. Ciao Matteo, ho raccontato il percorso per diventare padre in un monologo dal titolo Vita Nuova. Mi piacerebbe raccontartelo, Enzo. Enzo, fai una cosa, mandamene un pezzo, mandamene uno stralcio, mandamene insomma come se fosse un racconto e ci facciamo una puntata, sempre la solita, l'indirizzo. Voi siete qui, @radio24.it. Ogni tanto si parla anche di musica, ma dove l'hai pescata Blister in the Sand? In the Sand dei Violent Femmes? Non l'ho pescata io, lo pesca sempre Tiziano Bonini. E vi ricordo che i titoli sono sempre sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, nella pagina del giorno, dove trovate i titoli delle canzoni e da cui potete scaricare il podcast, sempre da lì se vi perdete una puntata e proprio non volete farne a meno. Arriva un altro messaggio. Giulio, fare il papà, seguire il loro crescere, l'affrontare a modo loro le prime difficoltà, dà più soddisfazioni che fare il sindaco. Giulio credo che sia il nostro sindaco del paesino del Piemonte e devo dire che non riesco a immaginare quante soddisfazioni possa veramente fare il sindaco, però noi ci fidiamo di te. È che io ho ancora in mente quella roba che diceva Cacciari, che disse qui Cacciari, e non riesco a farmelo uscire dalla testa. Prima vi ho parlato del Signore delle Mosche, me lo fece leggere al liceo la professoressa Paola Picorroaz. Se c'è qualcuno che ce l'ha avuta delle parti di Novara se la ricorda, era una donna. Già il nome fa paura. Cioè, arrivava la professoressa Piccolroaz e tu non potevi non metterti rigido sulla sedia. Ricordo una volta in cui mi dite 7 meno ad un tema, io ne andai fiero per, credo, ancora adesso probabilmente, se mi viene in mente. Sì, era un tema su Descrivi un tuo amico. 7 meno. Insomma, la professoressa Paola Piccolroaz mi fece leggere Il Signore delle Mosche. Vi dicevo, ve ne ho parlato prima e quindi ve ne voglio leggere un pezzettino. Prima però di cominciare a leggervelo, io vorrei che voi vi immaginaste... non nemmeno Lost, perché in Lost vi immaginate gli adulti. Fate così, immaginatevi proprio un'inquadratura a stringere. C'è un'isola in mezzo all'oceano, un'isola verde, non un atollo, un'isola grande, verde, con delle scogliere. Man mano che si avvicina l'inquadratura vedete un solco enorme nella foresta, tra gli alberi, scavato da un aereo che è caduto e ha praticamente rasato al suolo una lunga striscia di alberi. Continua a stringersi l'inquadratura, c'è il sole, il mare blu con la spuma bianca delle onde, e vedete un piccolo bambino biondo che scende da una scogliera. Il ragazzo dai capelli biondi si calò giù per l'ultimo tratto di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata addosso e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. Tutto intorno a lui, il lungo solco scavato nella giungla, era un bagno a vapore. Procedeva a fatica, tra le piante rampicanti e i tronchi spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di giallo, gli saettò davanti con un grido da strega, e un altro grido gli fece eco. «Oh, aspetta un po'! Aspetta un po'!» diceva una voce. «Mi sono impigliato!» Il ragazzo biondo si fermò e si tirò sulle calze con un gesto meccanico. Per un momento la giungla prese un'aria di provincia inglese. La voce parlò di nuovo. «Non posso quasi muovermi con tutti questi rampicanti!» Chi parlava uscì dal sottobosco camminando all'indietro, tra i rametti che gli graffiavano la giacca a vento sporca di grasso. Aveva le ginocchia nude grassocce, graffiate dalle spine. Si chinò, tolse le spine con cura e si voltò. Era più piccolo del ragazzo biondo e molto grasso. Venne avanti studiando attentamente dove mettere i piedi e guardò in su. Aveva dei grossi occhiali. «Oh, dov'è l'uomo col megafono?» Il ragazzo biondo scosse la testa. «Questa è un'isola. Almeno credo che sia un'isola. Quella là, nel mare, è una scogliera. Forse di grandi non ce n'è in nessun posto.» Il ragazzo grasso sembrò scosso. «C'era quel pilota, ma non era coi passeggeri? Era su, nella cabina davanti.» Il biondo guardava la scogliera strizzando gli occhi. «Tutti quegli altri bambini», continuò il grasso. «Qualcuno deve essere venuto fuori, no? Qualcuno sì, non è vero?» Il biondo si diresse verso l'acqua con l'aria più indifferente che poteva. Cercava di tenere le distanze, ma senza mostrarsi del tutto privo di interesse. Il grasso si affrettò a tenergli dietro. «Di grandi non ce n'è neanche uno?» «Credo di no.» Il biondo disse queste parole con solennità, ma poi fu sopraffatto dalla gioia di un'ambizione realizzata. Fece una capriola in mezzo al solco e una smorfia al ragazzo grasso, e poi disse: «Neanche un grande.» Matteo, mia figlia di 3 anni, dalla mattina alle 9 di sera, dalla mattina alle 9, alla sera a mezzanotte non si regge, non dorme nemmeno se la passi sul gas dei fornelli. Non capisco esattamente cosa voglia dire, però so che c'è un metodo con cui fare calmare i bambini, che fargli sentire la ventola sopra i fornelli. Cioè, la mia amica Giulia dice che è proprio impeccabile. Piglia sta bambina che piange, accende la ventola da sopra i fornelli, si mette sotto, la bambina... Giuro, Bonini, vieni a casa di Giulia e te lo faccio vedere. Nella scuola dove lavoro, durante l'intervallo, i bambini raccolgono dei bastoncini e li affilano con temperine e forbici fino a trasformarli in armi contundenti. Benissimo, chiudiamo così oggi. Mi chiedono cosa disse Cacciari. Ve lo dico domani, cosa disse Cacciari a questa radio, proprio ai microfoni di Alessandro Milan. Grazie a Roberto Scaltritti, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. Andrea. La storia di oggi era la storia di Andrea e parlava dello spirito selvaggio dei bambini. Quella di domani è la storia di Chiara e parla di amicizie epistolari. La prima volta che ci siamo visti è venuto a trovarmi nel luogo di villeggiatura in cui mi trovavo con i miei. Ero ovviamente emozionata, ma non quanto lui. Quasi non riusciva a parlare. Non vedevo l'ora finalmente di avere un dialogo verbale con lui, ma lui rimase praticamente muto. Mi fissava, mi scrutava, ma con uno sguardo disarmante. A un certo punto mi diede una lettera, che però mi chiese di leggere solo dopo il nostro saluto.